Oggi lunedì 3 ottobre 2011, intanto una carrellata di titoli, c'è chi sceglie proprio la politica, il dibattito dopo il milione di firme depositate per il referendum per cambiare la legge elettorale. Il Corriere della Sera titola "Piano per evitare il referendum, il PDL vuole introdurre le preferenze nel sistema elettorale". Per Repubblica "Scontro sul voto anticipato". Per La Stampa "La legge elettorale divide, cresce il partito dell'urna". Così il secolo XIX, muro contro il referendum. L'apertura del Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, fisco, 500.000 escono dai minimi, benefici solo a start-up e under 35. È una novità che riguarda il 95% dei contribuenti attualmente in regime agevolato, che dovrà dire addio a questa misura. Per Il Giornale, assalto giudiziario, le mani in tasca a Silvio. L'assalto è a Berlusconi. L'apertura dell'Unità, chi pensa ai giovani, emergenza precari. Mentre un quotidiano, il Quotidiano Nazionale, apre sulla sentenza certamente più attesa oggi per chi segue le cose giudiziarie. Chi ha ucciso Meredith? Questa è la domanda, con una foto, tutta pagina di Meredith Kercher. Oggi c'è la sentenza, presumibilmente oggi la sentenza del processo d'appello per l'uccisione di Meredith Kercher. Allora, le segnalazioni da cui voglio partire, la prima riguarda la politica, un po' di numeri relativi alla politica, quei numeri che a volte fanno un po' poi arrabbiare i nostri ascoltatori, che mi scrivono, dicono che poi con queste notizie rovino loro la giornata prima di andare al lavoro. No, sempre con un sorriso sulle labbra. Questa notizia, maggioranza salvata 5.098 volte dalle assenze in Parlamento. È Repubblica che mette in pagina 7 con Antonello Caporale questa storia. Facile farsi eleggere in Parlamento, difficile andarci tutte le mattine. Se piove, se c'è il sole, se è estate, inverno, se si è felici o anche depressi. Dopo l'elezione c'è il periodo di buio, una cornice down che annienta le forze, soprattutto in chi dal voto è stato sconfitto, e produce la meraviglia di una maggioranza che governa grazie all'opposizione, poggia la propria fiducia sulla stanchezza e in fin dei conti sulla sfiducia altrui. Inizia così l'articolo di Antonello Caporale per raccontare la ricerca che è stata fatta da Open Polis, l'associazione che monitora i comportamenti funzionali e puramente meccanici della classe politica, e che ha scoperto questo. Per 5.098 volte la maggioranza ha salvato i suoi commi, i suoi articoli, in ragione delle defezioni di esponenti dell'opposizione. Il 35% del totale dei provvedimenti approvati in questa legislatura scaturisce da questa funzione al contrario, cioè mancavano sui banchi dell'opposizione parlamentari, appunto, che dovrebbero fare opposizione. Tra le leggi, tra i casi più clamorosi di leggi più importanti passati grazie anche all'assenza in Parlamento, 2008 la legge che consegnò l'Italia ai patrioti ottenne 23 voti di scarto ed erano 24 i parlamentari dell'opposizione assenti, uguale sorte per la finanziaria. Nel 2009 lo scudo fiscale è legge perché in 120 del centro-sinistra disertano l'aula. Beh, in questo caso fu un'opposizione di un'assenza di un altro tipo, di protesta. Nel 2010 la sospensione delle demolizioni delle case fuori legge in campagna fu approvata con 22 voti di scarto, ma c'erano 24 parlamentari dell'opposizione assenti. E la famigerata legge mille proroghe del 2011, promulgata per 24 decisive assenze nel centro-sinistra, furono infatti 23 i voti di scarto. Insomma, dall'Italia alla manovra, ecco le leggi approvate senza il plenum dell'Aula, e per Open Polis 5.098 volte le assenze della minoranza del Parlamento hanno salvato i provvedimenti della maggioranza. La seconda storia che vi voglio segnalare viene dal Giornale, è una vicenda per certi versi drammatica, la trovate a pagina 15, la racconta Cristina Bassi, viene da Falconara Marittima nelle Marche. "Mi tolgono mio figlio senza dirmi perché", questo è il titolo. È una vicenda, ovviamente, quando si racconta dai contorni da tutta da chiarire. Un ragazzino di 11 anni è stato di colpo trasferito in una comunità protetta, in un luogo segreto, con i vigili urbani che su ordine dei servizi sociali sono andati a prelevarlo a scuola per portarlo via alla famiglia. Perché? Perché secondo la decisione del Tribunale dei Minori, il bambino sarebbe in stato di abbandono. Ora la madre protesta. Alla madre non è stato detto neanche su che basi. Gli assistenti sociali hanno dato questo giudizio. Gli assistenti sociali giurano: è da 2 anni che seguiamo quella famiglia, è una situazione difficile. Ma ora la madre protesta: me l'hanno tolto senza un motivo. È vero, io quando vado a lavorare lascio a mio cugino di 40 anni, ma è come se fosse un fratello, lo cura in assoluta tranquillità, in assoluta serenità. I miei genitori abitano a pochi passi, inoltre ho una figlia maggiore che ha 19 anni e da quel giorno però la madre Paola non ha più notizie o ha notizie scarse, soprattutto delle motivazioni per le quali è stato tolto il bambino di 11 anni. Ripeto, l'assessore comunale servizi sociali Gilberto Baldassarri dice: la famiglia era seguita da 2 anni, il bambino andava messo in sicurezza, non c'era più tempo da perdere, per quanto dolorosa era l'unica cosa da fare. Ovviamente in queste situazioni non possiamo sapere che cosa sia successo veramente, però è chiaro che in base al codice civile, articolo 403, ricorda il giornale in questa storia, quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo deve essere tolto alla famiglia, anche se la mamma del bambino dice di non capire. Cresco da sola 4 figlie, è difficile, ma lavoro sodo e ce la faccio. Abbiamo avuto qualche problema a scuola, lui è stato vittima di bullismo, ho fatto un esposto. Per la preside è lui ad essere irrequieto? È forse per questo che credono che sia abbandonato a se stesso? Sta di fatto che, insomma, di questa vicenda il giornale promette non è l'ultima volta che ne sentiremo parlare. Ricorda, secondo il giornale, altre vicende di bambini che sono stati tolti dalle famiglie e poi si sono rivelati degli errori. Ma insomma, staremo questo a vedere. La critica ai servizi sociali in questo caso sono stati troppo invadenti in questa decisione. Ripartiremo dalle notizie di politica, di cronaca, di economia e mercati tra 5 minuti. Allora, quando sono le 7:33 minuti, le notizie sui giornali, beh certo la politica si interroga dopo il 1.200.000 firme depositate per il referendum per modificare la legge elettorale, o meglio per abrogare l'attuale cosiddetto Porcellum o legge Calderoli. Lo so, a meno non è un tema che a me appassiona, in realtà, o meglio, è un tema molto complicato, è un tema difficile, come tutti i temi che riguardano i sistemi per eleggere i nostri politici. In realtà il tema è importantissimo, insomma, anche perché questo 1.200.000 firme pone un quesito molto serio. Si andrà a votare prima, visto che c'è questo referendum che incombe, o la Corte Costituzionale dovrà decidere se queste firme sono valide, se accettare questo referendum. Questo è lo snodo che avverrà attorno a gennaio. Allora, se si decide che questo referendum si può fare, ecco che sta crescendo sempre di più una sorta di partito del voto, come si suol dire all'interno della politica, cioè di quei politici che dicono: per cercare di ovviare a questo referendum bisogna andare a votare al più presto, questo vuol dire nel 2012. Ieri anche Casini, dopo che il ministro dell'interno Maroni aveva detto, anche con una certa sorpresa e spaccando un po' all'interno il fronte della Lega, bisogna andare al voto, ora Casini dice: non resta che il voto. Vi sorprenderò, ha scritto ieri Casini sul suo blog, ma trovo che il ministro Maroni abbia perfettamente ragione. Con una maggioranza come questa in stato confusionale, fare una legge elettorale seria e condivisa è come scalare l'Everest a piedi nudi. Molto meglio dare la parola ai cittadini, che è sempre un grande fattore di democrazia. E dunque, dopo Maroni, anche Casini dice: meglio andare a votare. Ma certamente la notizia più interessante di politica, di retroscena, oggi la regala Repubblica in prima pagina. Claudio Tito racconta quello che starebbe meditando il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La tentazione di Silvio, una lista per l'antipolitica. Cioè la tentazione di Berlusconi sarebbe questa, quella di fare un nuovo partito. Per la verità non è una novità che si affaccia sul panorama politico, ma questo 1.200.000 firme, questa voglia di referendum, questo rischio referendum, rischio dal punto di vista del Popolo della Libertà, spingerebbe Berlusconi a dire: facciamo un nuovo partito. Così non vinciamo. Il PDL sembra già un partito vecchio, serve un nuovo contenitore capace di convogliare l'antipolitica. Queste sono parole attribuite a Berlusconi e questo sarebbe lo sviluppo in mente per il Presidente del Consiglio, cioè fare un nuovo partito, un partito che cavalchi l'onda dell'antipolitica che c'è in Italia. L'idea che il 2012 sia l'anno delle elezioni anticipate sta aprendo una breccia anche a Palazzo Chigi, scrive Claudio Tito. Improvvisamente è comparso un dossier sulla scrivania di Berlusconi, campagna elettorale. Ed ora ecco ritorna un refrain nella sua testa, antipolitica, usare l'antipolitica e in qualche modo ritornare a Forza Italia, fare dunque un nuovo predellino che in un attimo dissolva la creatura partorita solo 3 anni fa, ossia il Popolo della Libertà. Ci vorrebbe un movimento leggero, senza strutture, queste sono sempre frasi attribuite a Berlusconi, qualcosa che assomigli ai Tea Party americani, un soggetto capace di cogliere il vento. Basti pensare, racconta Claudio Tito, agli ultimi cartelloni 3x6 piazzati nelle strade di tutto il paese. Dai forza all'Italia, iscriviti al PDL. Con le parole che spiccano sono queste, forza e Italia, in bella vista. Dunque per il capo del governo le liturgie partitiche sembrano un bagaglio troppo pesante, gli organismi dirigenti, le tessere, le sezioni, un assetto che poco si attaglia alla bufera che soffia contro i partiti. Insomma, questo sarebbe nell'ottica di Berlusconi, fare un nuovo partito, rinnovare e cavalcare l'idea dell'antipolitica. Anche per l'unità si pone questo tema, lo strano asse Casini-Maroni, dopo Maroni anche Casini che dice andare al voto, ed è tutto un grande dibattito appunto su questa legge elettorale. Per esempio Calderoli, che è l'autore di quella definita il Porcellum, ricorda sul Corriere della Sera, ricordava cioè ieri che in realtà il Porcellum fu voluto dall'UDC, e insomma sembra un po' subito una risposta a Casini, al che oggi Buttiglione dell'UDC, intervistato da pagina 5 del Corriere della Sera da Fabrizio Roncone, ricorda: ma insomma, se dice così Calderoli è un vecchio filibustiere di un leghista. E poi dice perché fu messo a quella riforma, quella norma elettorale che come una delle più, che con una ha una delle caratteristiche più importanti, quella per cui non possiamo scegliere i parlamentari, sono le liste bloccate. Beh, dice Buttiglione, la Lega voleva le liste bloccate perché se si vuole portare il proprio asino a passeggio in transatlantico è bene che l'elettore non sia messo nelle condizioni di scegliere, di valutare, di esprimere la propria volontà. Eccola qua quindi la frase molto dura, anche offensiva. Il senatur e il premier volevano portare i propri asini a passeggio in Parlamento. E poi per chi si vuole cimentare, il Sole 24 Ore, edizione del lunedì, propone a pagina 18 in lista la Babele di proposte. Eccolo qua, volete orientarvi su cos'è la legge Calderoli, vale a dire definita, rinominata Porcellum da Giovanni Sartori, attualmente in vigore? Volete sapere cos'è la legge Mattarella, che era quella, o Mattarellum, che era in vigore prima dell'attuale, o il sistema francese, il sistema tedesco, il sistema spagnolo, il sistema ungherese? Volete buttarvi in questa lettura? Beh, fatelo sul Sole 24 Ore, c'è tutto spiegato e tutto come orientarsi su sistemi elettorali sui quali si discute. Tra l'altro Giovanni Sartori oggi firma l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è La nave sbanda, chi c'è al timone? Sistemi di voto e naufragio delle idee. La notizia, scrive Sartori, è che la richiesta di referendum sulla riforma del sistema elettorale ha trionfato con 1.200.000 firme. Se verrà accettato dalla Corte Costituzionale, molti dicono e scrivono che così si tornerebbe al sistema precedente, al Mattarellum, ma è sbagliato. Nessun referendum può ripescare una precedente legge elettorale. Io, per esempio, scrive Sartori, ho combattuto il Porcellum, ma ho anche avversato il Mattarellum, e forse non sono il solo. Poi Sartori si lancia in una serie di giudizi sferzanti, sia nei confronti della Lega, con Bossi che sai solo sguainare la sciabolina di latta, vuole Grilli come governatore della Banca d'Italia perché è milanese, siamo al limite del ridicolo. Ma se la destra non ride, la sinistra dovrebbe piangere. Perché non c'è un'alternativa, un vero leader, Di Pietro e Vendola sono controproducenti per la sinistra riformista e moderata che ha perduto la sua vecchia ideologia senza riuscire a rifondarsi. Le nostre sinistre si esaltano con le primarie e coi voti che riescono a mobilitare per un referendum, ma non sono nemmeno capaci di decidere quale sia il buon sistema elettorale che propongono. Io ho conosciuto bene, data la mia età, la Prima Repubblica, conclude così Sartori. Allora protestavo, ma la Seconda Repubblica è stata incomparabilmente peggiore. È il momento di dirlo a chiare lettere. Sul dibattito politico si innesta anche tutta la discussione economica. È stato un fine settimana nel quale si è dibattuto anche della contromanovra, come qualcuno l'ha ribattezzata, il manifesto della Confindustria di Emma Marcegaglia, con i contenuti su patrimoniale, lotta all'evasione, privatizzazioni, che hanno animato il dibattito sui favorevoli e contrari. Oggi il Corriere della Sera vi dedica una pagina, pagina 9, dal titolo "Democratici spaccati in tre sul piano di Confindustria, come hanno reagito?". Beh, pare che Pierluigi Bersani, il segretario, sia rimasto entusiasta dal programma, tanto da avere messo un incontro in programma, un incontro con i vertici dell'associazione. "Vi sono molti punti in comune tra il nostro programma e loro", mentre Rosi Bindi si è mostrata più cauta. Negativo invece il giudizio dell'Italia dei Valori, e molto negativo per esempio Franco Giordano invece di Sinistra Ecologia e Libertà, dunque il partito di Nichi Vendola, che ricorda anche gli imprenditori prima erano con Berlusconi. Dunque, come hanno reagito? Per esempio Susanna Camusso, intervistata da Repubblica, da Roberto Mania, è critica per esempio di che cosa? Dell'iniziativa, altra iniziativa che ha animato il dibattito del weekend, dell'imprenditore Diego Della Valle, che ha comprato una pagina su alcuni quotidiani, i quotidiani più importanti, e ha fatto un jacuzzi molto duro nei confronti dell'intera classe politica. Camusso contro Mr. Todds: dove era la classe dirigente mentre l'Italia affondava? Così il titolo dell'intervista su Repubblica, pagina 11, del leader della CGIL. Il segretario dice: da una parte c'è un grido d'allarme per dove siamo arrivati, ma dall'altra non mi convince la tesi secondo la quale tutti i politici sarebbero uguali, senza distinzione di responsabilità tra chi governa e chi no. È un approccio che finisce per alimentare l'antipolitica e l'illusione che si possa fare a meno della politica. Dunque c'è il dibattito su questo, come altri dibattiti giudiziari ripartono oggi. Tutti i giornali dedicano pagine sul fatto che oggi partano alcuni processi importanti. Beh, quello più importante è quello relativo al presidente Silvio Berlusconi a Milano, il caso Ruby. Caso Ruby e processo a Fede sono due dunque diversi i procedimenti, ma per una vicenda uguale. Caso Ruby e processo a Fede, doppio scacco per il premier. Oggi due dibattimenti hanno al centro le notti di Arcore e il ruolo di Berlusconi. Questo è il titolo e la relativa cronaca di Paolo Colonnello sulla Stampa a pagina 3. Mentre il giornale punta proprio su questo, lo mette in prima pagina con il titolo "Le mani in tasca Silvio, oggi riprende il processo numero 26, le condanne zero. In aula 132 testimoni, 100.000 intercettazioni, le vittime zero". Ecco perché, dice il giornale, è accanimento. Berlusconi mai condannato, ma gli hanno già tolto un miliardo, sempre assolto. I giudici però vogliono demolire il suo patrimonio. Mentre l'Unità la vede così: Ruby e Nicole, Silvio in trappola tra le sue ragazze. Claudia Fusani racconta, pagina 10, oggi l'ennesima giornata cruciale per i processi Bunga Bunga. Tant'è vero che su questo si cimenta, ormai è un leitmotiv nell'editoriale del lunedì, Giuliano Ferrara sul Foglio. Il titolo è "Berlusconi non è il presidente del Consiglio, è Berlusconi". Questa è la teoria di Ferrara. Berlusconi, come tutti sanno, non è il presidente del Consiglio. Abbiamo avuto una lunga serie di presidenti del Consiglio, prima e dopo la distruzione per via giudiziaria della Repubblica dei Partiti, da Pella a Fanfani, da Andreotti a Moro, da Spadolini a Craxi. Nessuno di loro, nemmeno quelli formati nell'ideologia di Brezhnev e Cernienko, Longo e Berlinguer, e mai emancipati davvero, si è mai sognato di sforare il galateo. Ma il cavaliere è persona gentile, non avrebbe mai fatto il premier se voi non foste falliti, se non vi foste divisi sotto la sferza di pura fibra morale di un Tonino Di Pietro. Voleva salvare se stesso e le nostre povere libertà, dare un nuovo tono e una nuova sostanza alla Repubblica dei parrucconi in fuga dai magistrati codini. Con molti se e ma c'è riuscito. Ma quel che è riuscito a fare si deve al fatto che Berlusconi è Berlusconi, non il presidente del Consiglio di cui voi vagheggiate, non l'alto burocrate al servizio dei vostri protocolli, dei savi della Repubblica. Così oggi Giuliano Ferrara sul Foglio, giorno oggi in cui ripartono i processi, alcuni processi, uno in particolare il caso Ruby a suo carico. E intanto ad Atene, a New York, monta la protesta per la situazione economica e finanziaria mondiale. E da qui ripartiamo dopo il traffico. Allora, alle 7:48 minuti, ad Atene che succede? Beh, ad Atene in Grecia hanno deciso di tagliare 30.000 dipendenti pubblici. Era una delle condizioni più importanti, una delle condizioni decisive per cercare di salvare Atene e anche una delle condizioni imposte, obbligate per lo sblocco dell'ultimo prestito internazionale da 8 miliardi di euro, spasmodicamente atteso a fine ottobre affinché le casse di Atene non siano completamente a secco. Certo, questa decisione ora verrà ratificata dal Parlamento di Atene. Sappiamo che il numero dei dipendenti pubblici certamente era molto alto in Grecia. Questo era dovuto anche per colpa della politica, cercare di trovare delle persone che fossero legate dal punto di vista della riconoscenza elettorale ai politici. Si è formata negli anni questa grande massa di dipendenti pubblici molto più esagerata del necessario. Ora, tra l'annuncio di 30.000 dipendenti pubblici che dovranno perdere il posto in un paese dove per Costituzione il posto era garantito a vita per i dipendenti pubblici e sono un quinto di tutti gli occupanti greci, 30.000 da tagliare. Si teme ovviamente che cosa? Una reazione ora delle persone. Bisogna cercare di capire come le persone reagiranno, le persone che verranno coinvolte in questi maxi tagli. Mentre negli Stati Uniti, attenzione, perché per ora sono pochi i cosiddetti indignati di Wall Street, i ribelli anti-Wall Street, ma chissà, loro dicono saremo sempre di più, avremo sempre più visibilità. Sono forse 700, qualche centinaio, qualche migliaio, chi lo sa, che hanno protestato contro appunto Wall Street con questa campagna Occupy Wall Street. 700 arresti ieri, non fermano comunque la protesta, non abbiamo paura, sono un po' ovunque sui giornali intervistati i leader dei ribelli, per esempio Justin Wiggs è intervistato dall'Unità e dice la classe media ormai ha un cappio al collo e dunque reagiremo, staremo sempre qui, ci faremo sentire ancora, sempre di più. Sono questi ribelli che sono stati arrestati ai bordi del ponte di Brooklyn ieri, ma che promettono nuove battaglie. Rispuntano i vecchi attivisti come Kathleen Cleaver, che è stata portavoce delle Pantere Nere, intervistata da La Stampa, da Maurizio Molinari, dice «Anche allora, all'epoca del Vietnam, eravamo in pochi all'inizio a manifestare, ma ora serve un'alleanza per manifestare contro le banche, contro il potere, contro Wall Street. Dobbiamo continuare a protestare». Staremo a vedere come si evolve anche in questa situazione. Sottolineo in prima pagina del Sole 24 Ore un'importante novità oggi nell'edizione del lunedì che riguarda 500.000 lavoratori autonomi, artigiani e professionisti che dovranno presto dire addio al regime dei minimi. Si tratta del 95% dei contribuenti attualmente ammessi al super forfettone che dovranno, per via della nuova finanziaria, dal prossimo anno perdere i requisiti per l'agevolazione. Tutte le novità le trovate a pagina 3 del Sole. Addio al sogno del prelievo leggero, il grande esodo dai minimi. Quasi 500.000 contribuenti, per loro dal 2012 scatta l'espulsione. Voglio andare però alle notizie di cronaca. Oggi, come detto, è il giorno del verdetto e tutti i giornali vi dedicano pagine, alcuni vi aprono addirittura come il Quotidiano Nazionale, il verdetto d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher. Imputati sono Amanda Knox e Raffaele Sollecito. A Perugia c'è un'attesa spasmodica, soprattutto dagli Stati Uniti hanno già deciso di fatto che bisogna che debba prevalere la tesi innocentista. Insomma, può darsi davvero che oggi possano essere rilasciati alla termine di un processo che ha anche mostrato vari dubbi. Di certo oggi vi voglio segnalare, per concludere, che cosa? L'intervista che Felice Cavallaro sul Corriere della Sera ha fatto a Salvatore Riina Junior, il figlio di Totò Riina, liberato, si doveva andare a vivere a Padova, probabilmente vi andrà nei prossimi giorni. Per il momento, infatti, una misura vecchia di cui non se ne sapeva nulla gli impone ancora qualche periodo di firma al commissariato di Corleone. Dunque è tornato a Corleone, dove per la verità il sindaco dice non lo accettiamo assolutamente, ma viene intercettato da Felice Cavallaro: dopo 8 anni ho pagato il conto e ho diritto di rifarmi una vita. Intervistato a pagina 17, eccolo qui, mentre sta andando in commissariato a firmare, sembra di parlare con il suo avvocato per la precisione del linguaggio, il garbo, l'attenzione a sfumature e congiuntivi. Dopo 8 anni e 10 mesi sono un uomo libero, ho studiato e mi sono diplomato, ho studiato all'università e voglio vivere la mia vita di cittadino. E poi riguardo alle proteste, non mi vogliono al nord e non mi vogliono al sud. Non è questo lo spirito della Costituzione, bisognerebbe ricordare a sindaci e governatori. Per esempio, non devo andare al nord perché i leghisti e il governatore Zaia non lo vogliono? Beh, ditemi dove devo andare. Io nemmeno a Corleone volevo tornare. Insomma, un Salvatore Riina che dice: ditemi che fare, ho pagato il mio debito, debbo avere anch'io una possibilità. A tutti coloro che mi hanno detto in conclusione di leggere la Gazzetta dello Sport, sono una delle cose, una delle fortune a volte che capitano nella vita, come ieri mi è capitato, era di essere su un aereo e quindi non ass aver assistito neanche a mezzo secondo della partita di ieri sera. In ogni caso, il titolo della Gazzetta dello Sport: Turbo Juve, doppietta di Marchisio stende il Milan, bianconeri primi. Ecco, l'ho letto in maniera molto asettica, asettica. D'altronde il calcio comunque riserva grandi gioie, la Pro Sesto è in cima al campionato di eccellenza Girone A, Regione Lombardia. Dunque per me va bene così. Ci fermiamo per il giornale radio.